51, quella roba lì. E poi in questi ultimi anni e mezzo mi sono adattato alle vespe, quindi un po' di vespe, una come ce l'avevo da ragazzino, poi una, poi un altro paio un po' più vecchie, un monossella, eccetera eccetera, un 150, quindi moto del genere. Devi vedere, sono uno spettacolo, cioè tu considera che diciamo, un Guzzi per esempio che l'ho lavato una volta in 6 anni che l'ho fatto, quindi non ti dico altro come viene tenuto. Certo. E per i pezzi di ricambio, cioè ad esempio la fanaleria, la riesci a trovare, le cromature, queste parti qua? Cromature si spedisce tutto fuori, si fa ricromare tutto, i pezzi non ci sono, si ricostruiscono. Se non riesco io perché mi manca qualche attrezzatura, qualcosa, li faccio fare e poi bene o male riproducono tutto, si ritrova tutto, capito? Questo è il pezzo originale, lo metti a posto, lo fai cromare, lo fai, allora, vuol dire si ritrova più o meno tutto, non c'è problema, è solo una questione di costi, poi per il resto problemi non ce ne sono. Eh sì, certo che alla fine diventa una cosa certamente impegnativa anche da un punto di vista economico, sicuramente. E comunque sono tutte quante rigorosamente, erano mezzi rottamati che poi hai reimmatricolato. Sì, alcune sì, ne ho una adesso che sto aspettando a Vespa Monossella, che sto aspettando l'immatricolazione, anche lì per esempio, sino a quest'estate ero, stavo uscendo il testo dietro i mezzi, poi ho smesso, fine estate, addirittura questa qua la devo portare giù al mare, anche se poi non poteva girare, la verità, però va appena finita, ha fatto un po' di giri, l'ho lavata, l'ho messa, vado a mettere in moto, e questo era un gioiello il moto, e non mette più in moto. Ma deve essere un problema, dovrei aprire nel campo, vedere il condensatore, non è un grosso problema per me farla, è un problema di corrente, quindi qualche ora la metto a posto, ma tu ci credi che da mesi l'ho coperta, con la scocca aperta, e non l'ho più calcolata, capito? E quella volta mi ha dato un po' di problemi e quindi un po' la odio, cacchio, cioè amore e odio, capito? Amore e odio, tu immaginati che una volta che l'ho finita di verniciare, uscita perfetta, vado a sganciarla, mi cade e si è disintegrata, l'ho dovuta rimettere sul banco, l'ho dovuta riaddrizzare, rifarla completamente, non ti dico altro. Gesù Maria, deve essere una bella passione, deve essere una bella passione, senza dubbio, ma questa delle radio però è venuta dopo. Allora, radio è una vita, io resto in radio, capito? Poi è stato un periodo che ho smesso, un bel periodo, un bel po' di anni, perché non mi piaceva più cosa c'era dietro, io eccetera eccetera, e quindi, anzi io devo, cioè, io c'era una mezza patente sospesa, l'ho presa, che non è mai entrata in vigore, perché mio padre, ero piccolo, ero ragazzino, la speciale, poi non so che cazzo fine ha fatto, non, con l'inattivo, mio padre non aveva mai soffiato, non mi ricordo cosa era successo, cose strane erano successe, perché avevo bisticciato, perché a scuola me l'ho girato i coglioni, non volevo continuare l'università, qualcosa, non mi ricordo, era successo qualcosa, e poi era il periodo che avevo smesso, non so che ho chiesto di questo pezzo di cose, che non risulta più da nessuna parte. Non è improbabile, se poi consideri che da 20-25 anni a questa parte, diciamo un 25 anni a questa parte, c'è stata da quanto la rivoluzione amministrativa e la corsa a cercare di catalogare il più possibile in banche dati i documenti, e questa corsa alla catalogazione dei documenti spesso ha comportato la perdita degli stessi, per carità, quindi niente di improbabile che non risulti più da nessuna serie caricato un nominativo o un riferimento a te. La cosa è più complicata, perché adesso non mi vorrei ricordare, ma io mi avevo messo qualche firma a mio padre, forse ero minorenne, avevo preso la speciale, ma non avevo mai avuto un nominativo, perché mio padre non ricordo che non aveva voluto, perché era il periodo che ero il quarto anno, non mi ricordo che cazzo c'era, ma io poi non volevo continuare, volevo fare un lavoro qui, cazzo, quindi tu non voleva più, ci vorrai, allora, è un casino, puoi vedere che è passato, era arrivato per la richiesta del nominativo, però sai, io ho 42 anni, qui ti parlo che non ero forse nemmeno maggiorenne, e poi da lì era accaduto tutto, avevo continuato un altro qui in radio, ho continuato i fatti e a per dispetto, capito, quindi c'è tutto un atto, e poi mi sono trasferito, l'ho rimontato così velocemente, qualche antennino, ogni tanto, poi l'ambiente si era sporcato troppo, non mi piaceva più, avevo chiuso, e poi ho ripreso da un po' lavori, ho deciso di riprendere, di fare qualcosa, capite? Quindi poi una volta che riprendo, adesso ti ripeto come ogni hobby, adesso questo è il periodo caldo per me, e per quello patente, faccende, vorrei prendere nuovamente la patente, poi ti ho raccontato com'è andata, anche oggi stavo guardando su internet per vedere se c'era qualche sezione a dicembre in qualche altra regione per andare, però non ho visto niente, non ci sono molte informative, vai, bisognerebbe essere dentro da qualcuno che sa qualcosa di più, ho guardato su internet, non ho trovato niente, perché magari pensavo che in qualche regione a dicembre c'era qualche sezione. Ho capito. Beh, niente di improbabile che casomai nelle grandi città possano fare delle... più di una sezione autunnale possibile, più di una sessione autunnale. Ma non lo so, però voglio dire, non è, qui l'abbiamo fatto a ottobre, ma non penso che si faccia, tutti la facciano a ottobre, no? Ho sentito alcuni posti che l'hanno fatta anche a dicembre, quindi cioè, ci vorrà credo un mesetto prima di presentare le domande. Se sapessi che a dicembre c'è questa roba qua, che ne so, a Genova, a Torino, che cavolo è, non ho problemi, ti organizzi, vai lì e ci provi, capito? Accorci un po' i tempi, ci provi nuovamente e via, accorci i tempi, no? Certo, no, io intendevo nel senso che poteva anche capitare il fatto che in qualche grande città, visto il numero che ne so, dei candidati, facevano più di una sessione, ecco, questo è che volevo dire. Ho capito, boh, non lo so, io adesso le devo chiedere a qualcuno che sta in radio, qualcuno, anzi, qualche collega, io ce l'ho, qualcuno che sta proprio in radio e che magari può chiedere nelle varie città se c'è qualche sezione, qualcosa, tra di loro si sa, vedere un attimo, però bisognerebbe fare una cosa breve, perché credo che siano a dicembre qualche altra sezione. Ho capito. Va bene, Fabri, io ti devo lasciare che sto organizzando la serata per vederci la partita. E che partita c'è? Inter-Juve. Quindi Inter-Juve, ho capito, Inter-Juve, ma ragazzi, avrei fatto quadrato per me il pallone. E invece adesso la faccio, adesso mia moglie chiude il negozio fra un po', adesso prendo la macchina, tiro fuori al garage e me ne vado a mettere, non c'ho i bambini che sono da mia sorella, e me ne vado a mangiare con calma da qualche parte, va. Ti sconsiglio di andare in posti dove trasmettono la partita per evitare le solite situazioni sconvenienti dove ci sono persone molto poco educate che si lanciano in commenti. No, un cavolo, come vado in qualche posto tranquillo, io vado posti un po' veloci quando sono con i bambini, che quelli vogliono vedere, giocano e fanno casino, no, quando riesco una volta ogni 2 settimane in genere c'ho la mia sorella che viene e si prende i bambini, no, che li vuole con lei, quindi dormono con lei una notte, allora ne approfitto, me ne vado da qualche parte, in genere qualche locale tranquillo, in genere molte volte vado lì a saccaccia, perché si mangia bene, mi siedo un'oretta e mezzo con calma e mangio come si deve, capito? Senza la rottura di ballo dei bambini, la verità si dica. Cappa, ma tu ce l'hai piccoli, io la mia c'ha 10 anni. Io ne ho uno di 8 e uno di 3, capito? Quindi uno inizia a essere più grandetto, quindi però ovviamente quando vai devi andare con qualcuno, perché se no si annoiano i bambini e via. L'altro di 3 invece è una rottura di palla, infatti se vai con lui devi evitare di andare dove c'è la pizzeria, perché vuole vedere il forno e vuole piangere, dov'è il forno, voglio vedere le pizze, voglio vedere quello, voglio questo, e che allora preferisco non andarci, capito? Vedi il lato positivo, avrai un pizzaiolo in famiglia. Ma tutto è buono, ma io sono del parere che a fare un lavoro dove si lavora poco e si guadagna bene, perché la vita è una e una sola, capito? E invece con i tempi che vanno avanti sarà il contrario, si lavora molto e si guadagna poco, e il pizzaiolo, tanto di cappello, è uno di quei lavori che ti fa veramente il culo, capito? Assolutamente sì. E tu pensa che comunque lavori tradizionali, lavori proprio che un tempo avrebbero considerato proprio di bassa caratura, in realtà se ne ha un grande bisogno, come ad esempio quello del panettiere, cioè è uno di quei mestieri che sta andando piano piano in disuso, e si ha, l'ultima statistica italiana sembra qualcosa come 6.000-7.000 panettieri servirebbero per reintegrare tutta quella forza lavoro che nel frattempo è andata in pensione. Perché? Perché chiaramente, essendo un lavoro che viene fatto, diciamo, in ore sconvenienti, non lo si vuole fare. Però della serie, vedi, che se uno è armato di buona volontà e ha gana di lavorare, opportunità ce ne sono. Lo so, io ti dico una cosa, che però è un lavoro, guarda, mio nonno aveva la panettiera, aveva un panificio, no? Anche noto a Sassari, che poi è stato venduto perché i figli, nessuno ne ha voluto fare, tutti hanno lavorato in questo panificio, poi ognuno ha chiesto gli studi, che invece no, comunque ognuno ha seguito la sua strada, capito? E nessuno ha voluto proseguire questa attività, ed era veramente, si guadagnava, era veramente, i soldi si facevano a quanto ho capito. Nessuno l'ha voluta fare perché comunque è una buccia di culo, ti alzi la mattina presto e poi soprattutto magari con il titolare devi finire, ci sono le consegne, tutto quanto, eccetera, eccetera. Un lavoro, una vita del cavolo, capito? Quindi per quello te lo dico, no? Cioè, magari si può anche avere un buono stipendio, chi la farà lo fa come dipendente. Se lo fai come titolare probabilmente qualche soldo, adesso non lo so con la crisi che c'è con la concorrenza, però voglio dire, è un lavoro che fai il culo, che è una cosa incredibile. Assolutamente sì, però è un lavoro dove guadagni bene, dove guadagni bene. Tu pensa che io conoscevo questo ragazzo di Orosei, e ha sempre avuto bellissime macchine, sempre vestito bene, super firmato, eccetera, eccetera. Loro avevano che cosa? Un panificio e facevano pane carasau. Beh, quando la mamma la mamma e la zia, che erano diciamo le titolari, hanno detto basta, non ce la facciamo più perché è una vita veramente di sacrifici, eccetera, eccetera, lui mi ha detto, lo sai Salvatore, sì è vero che dobbiamo chiudere, ma siccome il prodotto è un prodotto così buono, abbiamo da rispettare le commesse per i prossimi 2 anni, dei quali noi abbiamo già preso le prenotazioni. Te l'immagini, cioè loro sapevano comunque che dovevano chiudere, però che comunque dovevano in ogni caso lavorare per gli altri 2 anni per soddisfare quelle che erano state tutte quante le richieste e le commesse che avevano già sottoscritto. Lo so, però è lavoraccio, dipende da come viene fatto, se lo fai con il titolare, però qua alla fine è sempre comunque un lavoraccio, perché se... No, non è un lavoro, secondo me non è che non lavoro a fare, per carità, faccio, se uno può scegliere è meglio che scelga altro, anche se poi può guadagnare anche qualche lira in meno, però io rimango del parere che i soldi, guarda, io c'è stato un periodo che facevo un po' di tutto, ho fatto, mi stavo organizzando, adesso faccio turni, però fuori facevo altro che portavo più soldi dalle altre parti che da quello che ho fatto, ero rimasto lì per mille motivi, e per come erano i tempi precedenti ho detto ma se arrivano ancora bene alcune cose faccio a 45 anni, 48, mi licenzio pure e vivo di rendita senza immaginate cosa, però comunque posso vivere forse di rendita senza lavorare. E invece purtroppo le cose non sono andate così, adesso che la crisi si è fatta sentire per tutti e sì, introiti da altre parti entrano, e non entrano, no? Qualche cosa, però non il tanto per poter dire non lavoro, quindi continuo a lavorare in un posto di lavoro, grazie a Dio che viene distribuito il tutto, quindi non è che mi lamento. Però, ho capito, nel fatto che lavoro ma non mi ammazzo, cioè voglio dire, lavoro ma non mi ammazzo, io quello era riuscire a fare dopo 22-25 anni di lavoro, riuscire a realizzare un qualcosa che mi consentisse di vivere dignitosamente ma non nel lusso, dignitosamente senza lavorare, capito? Per dirti, tu dici, ma io sì, volevo godermi la vita, ma potrei sì, potrei lavorare, magari avrei potuto guadagnare ancora di più, ma io sono il parere che accumulare soldi non te ne fai niente, capito? Poi purtroppo la crisi è quella che è, quindi per campare bisogna lavorare, non si può più fare le cose che avevo in mente. Sì. Sì, no, un lavoro di grande sacrificio lo fa un amico che ho ancora a Nuoro, che loro hanno come famiglia una grossa distribuzione al mercato ortofrutticolo. Guadagnano da paura, ma veramente da paura, da paura, da paura. No, è una vita di sacrifici, perché loro vita sociale ad esempio non ne fanno. Capitava, che ne so, che noi volevamo andare durante la settimana a mangiarci una pizza e loro non venivano, lui e la moglie. Perché? Perché loro a letto attorno alle 9, perché lui per le 3:30 era già al centro dell'ortofrutta, perché arrivavano i tir da fuori, o da Cagliari o da Olbia, e spesso quando arrivavano quelli da Cagliari arrivavano anche a mezzanotte e mezza, e quindi catalogare tutta quanta la merce, controllarla eccetera eccetera, per poi iniziare attorno alle 4 l'opera di vendita a tutti quanti i vari commercianti. È un lavoro veramente di grande sacrificio. Guadagnavano l'ira di Dio, però il rovescio della medaglia è che loro non facevano praticamente vita sociale. Lo so, è quello a me che non va, capito? Io purtroppo per la società come si sta mettendo sicuramente bisognerà lavorare molto e per sopravvivere, credo, quello è quello credo che faranno i miei figli, e probabilmente adesso non è questa la mia situazione, ma potrebbe essere che fra qualche anno anch'io dovrò ridimensionare il tenore di vita e lavorare molto di più per guadagnare di meno, tutto è possibile, tanto ormai ci sto perdendo ogni speranza. Però lavorando in un posto tranquillissimo, voglio dire, quindi da ho iniziato a lavorare che avevo appena diplomato, quando avevo 21 anni, quindi il classico posto tranquillo e ben pagato e tutto, quindi con il tempo che avevo, tempo libero eccetera eccetera, provenendo da una famiglia, io più che altro da parte della moglie di piccoli imprenditori, attività commerciali, questa roba qua, quando all'epoca non andavano di più. Quindi ho iniziato anch'io, sai, a fare, mi trovavo stretto anche un po' dove lavoravo, quindi ho iniziato a fare, avevo tanto tempo libero, facevo comprare vendita di appartamenti, quindi prendevo appartamenti, ristrutturavo, vendevo, soprattutto al centro storico, compravo a poco, ristrutturavo e vendevo, eccetera, eccetera. Facendo questo qualche cosa mi è rimasto, capito? Quindi ho detto, ma se continuo così negli anni, se mi resta a farne qualcuno di più, praticamente ne faccio un po' e vivo di rendita, capito? Ho detto, senza arricchirti, però almeno, e poi lui col tempo libero continua a fare qualche cosa, cioè così quando ne ho voglia, no? Invece cosa è successo? Che ovviamente il mercato si è tutto bloccato da un po', qualcosa mi è rimasto, di cui qualcuno non deve pagare affitti, immaginati un po', certo, perché c'è una crisi impressionante, quindi devi anche trovare un accordo, vai via, non vai via, eccetera, eccetera, quindi, quindi il rischio è anche quello. Non sono riuscito a creare quello che volevo creare per dire non lavoro, mi capisci? Quindi ti trovi con qualcosa in più che riesci a fare, quell'attività lì, quella cosa, con qualcuno che nemmeno paga, quindi perché giustamente non è colpa sua, ma la crisi, la disoccupazione, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente meno male che sto continuando a lavorare e non come stavo facendo 6-7 anni fa, stavo per dare le dimissioni e andarmene, capito? E K ha registrato il break. Ho capito, sì. Alla fine, comunque sarebbe stato, penso, forse una sciocchezza abbandonare tutto, perché hai una copertura previdenziale, hai una copertura assicurativa, hai una serie di elementi che tornano sempre utili. A volte quando non li si hanno, poi succedono dei problemi e uno si danna perché non ce li ha più. È ovvio che il lavoratore dipendente è sottoposto a determinate regole, però è anche vero, insomma, che guardandolo da un punto di vista della realtà quotidiana, dei tempi che corrono oggi, diciamo ti solleva da determinati pensieri che in molti purtroppo hanno a causa della precarietà del loro di lavoro. Quindi comunque facciamo entrare l'amico, buonasera Salvatore da questa parte, e con Fabrizio. Ciao doppio Rum, ben sentito, rientrando dal trabacco. Succede questo, che se tu hai paura, ma anche anche se c'è uno stipendio, che arrivi così a fine mese, decidi di fare un sacrificio perché ti vuoi cambiare la macchina, oppure perché vuoi comprare il motorino al figlio, oppure perché ti vuoi fare una vacanza. Cioè tutte queste piccole, cioè, ma sono 1000 euro la vacanza, no, e adesso ti metti una rata conso di 100 euro al mese, una cazzata a Twitch, però tutte queste piccole cose creano giro, capito? Creano giro. Invece anche se non te lo potresti permetterti al corrotto della cuffia, ma lo fai, perché hai paura, perché hai paura, e questo creano bloccano ancora più l'economia. Ma certo, se tu sei sicuro che il tuo posto di lavoro bene o male ogni mese ti arrivi e decidi di fare quasi quasi il passo più grande della gamba, vabbè, va per 3 anni mi incasino, però lo faccio, perché lo voglio fare, una cosa che mi piace, io l'ho sentito da questo discorso, l'ho sempre sentito, vabbè, va, fanculo, mi incasino 2 anni, però voglio farlo, non senti più nessuno che lo fa, perché ha paura, capito, di incasinarsi, ancora di più di quello che è incasinato. Io per dire la macchina me la potrei cambiare, no, non lo faccio perché ho sempre paura, ho cambiato l'altro, ma questa qui adesso mi faccio quella volete che mi devo fare di carrozzeria e basta, me la tengo perché va bene. Sì, ma è così, capito, è così, io lo stesso. Ho cambiato la macchina per sfizio, no, perché l'ho cambiato proprio per sfizio, perché è proprio una cosa che non mi serve, giusto per... Ma lo sai che prima non ci avrei pensato, lo potevo fare, non ci avrei pensato 2 volte a fare quello che ho fatto da cambiarmi la macchina, perché ogni 4 anni la cambio. Non ci avrei... Lo sai che questa volta ci ho pensato, ma tu lo sai quanto ci ho pensato, ma la cambio, ma ne vale la pena, prendo una macchina così, ma che altro me lo fa fare, ma è solo uno sfizio, ma è giusto in questo periodo togliersi dello sfizio, ma non si sa mai, ma se, ma, io lo parlo, ma ce lo puoi fare, sì, ma cazzo, lo puoi fare, ma però mi sembra esagerato, ma cazzo, me ne frega, ma poi, cioè, un bel problema, però voglio dire, tutti questi problemi portano anche a chi può farlo a non spendere, e questo blocca tutto, capito, è questo quello che sta succedendo, già, avanti puoi fai girare, già. Che a me a volte se mi tolgo qualche iscritto, qualche sciocchezza, per dire, mi ho comprato della roba e ho pensato a quelli per dire che hanno avuto i problemi dell'ubifragio eccetera eccetera, vicino a Genova, alla fine. Ci ho pensato, allora gli ho mandato qualche cosa, perché era giusto così, dai, secondo me non era giusto che io godessi di qualcosa quando gli altri stavano soffrendo per quello che avevano appena. Lo so, quello lo faccio anch'io, quando, no, vabbè, quando posso, anzi sono un po' che non ne faccio, io ho un'associazione, prima erano tutti quanti, un po' uno, un po' l'altro, e rompevano le balle, la verità, alla fine mi arrivano 200.000 lettere, però ho deciso di darlo solo a un'associazione, ogni tanto qualche versamento lo faccio, poi c'è un periodo che mi era, io sono contro, non contro, ma fatto un cazzo della chiesa, di queste cose qua, però c'era una suona in gamba che ogni tanto aiutava, anche un po' abbandonata adesso, capito? Io c'ho una bassa, riprendi Salvatore. Scappa. È così, ho già, è così. Anche se purtroppo quando si fanno delle erogazioni, si danno dei soldini per aiutare le situazioni più diciamo più brutte, di gente in difficoltà, si fanno i versamenti sempre sperando che giungano a destinazione, perché purtroppo da noi in Italia vige la regola e il vizio di lucrare anche e soprattutto sulle disgrazie altrui. Non so, era già in conto quello che non potesse andare alla destinazione, però io lo faccio col cuore, io spero che quella mia piccola parte serva per qualcosa e che vada a porto dove deve andare. Ma intanto quello è il discorso è il fatto che io ci penso 2 volte, vuol dire, se mi devo prendere qualcosa, penso, ma boh, magari c'è gente che ha bisogno, io mi sto prendendo questo, che è una cosa che magari posso fare anche a me, ho capito? È quello che penso, perché proprio diciamo, non so se sia difetto o pregio, sono molto altruista e penso anche agli altri. No, il discorso è, ho già, che comunque credo che anche per l'epoca che stiamo vivendo sarebbe giusto dare un giusto peso a tutte le cose che ci troviamo ad affrontare e con le quali ci confrontiamo. Idem con anche il denaro, perché bisogna comunque avere il rispetto per quello che è comunque l'unico elemento di scambio da quando il baratto è stato eliminato, per cui spenderli in una maniera oculata e corretta con un occhio di riguardo a quello che è il valore delle cose che si stanno andando a prendere è anche un modo come un altro per rendere onore a coloro che casomai proprio quella cosa che uno sta andando a comprarsi non se la possono comprare. Ma io per dire se ho preso di cose, ma purtroppo la vita deve andare avanti, già se tu fossi nella stessa situazione non si metterebbero problemi, ma io sono fatto così e c'è poco da fare, è normale che i problemi me li metta perché ho sempre fatto, ho aiutato gli altri, ho sempre fatto il volontario, anche se adesso non ci sto andando spesso, però sempre faccio parte di un gruppo di volontariato e niente, ho sempre avuto dell'animo queste cose qua, c'è poco da fare. No, assolutamente, sono cose bellissime, nonno, per carità, assolutamente, assolutamente. No, quello che mi dispiace è che spesso il buon e ottimo lavoro che viene portato avanti da persone come te, da organizzazioni che come quella al quale tu aderisci, spesso viene letteralmente sbugiardato dalle stoffanti che vedono una opportunità, una loro personale opportunità per sfruttarla e per intascarsi qualcosa. E l'abbiamo visto in tutte quante quelle situazioni dove ci sono state tragedie, ci sono stati cataclismi, e questa che ha colpito adesso la riviera di Levante, lo Spezzino e quant'altro, sicuramente tra qualche settimana, tra qualche mese, eccetera, leggeremo qualche titolo di qualche maledetto che è riuscito in un modo o nell'altro ad approfittarne. Ma già ci sono gli sciacalli che si stanno prendendo la roba, quando c'era il terremoto dovevamo fare la ronda noi di notte, hai capito? Quando c'è stato il terremoto, di notte dovevamo fare la ronda noi, i carabinieri, i vigili urbani, perché c'era la gente che di notte andava a rubare la roba nelle case. Ti rendi conto? Ma ti rendi conto? Per carità, guarda. Che gente, Gesù Maria. Oh, ioi. Ma a che punto, dove sei arrivato? Io adesso sono alla rotola della Croce, sono quasi arrivato a casa. Ma penso che non mi abbia perso nemmeno un attimo, confermi. Assolutamente, assolutamente. Da quando sei partito, giù il segnale, quando hai acceso la radio, come ti stava arrivando giù? Non ci ho fatto caso, ma penso, roba così, arrivavi bene, c'avevi la radio, sia tu che Fabrizio che era una bomba. Fabrizio lo stesso è un bel forte, proprio sembra sotto casa con quel microfono, arriva a una perfezione unica. Secondo me ha giovato il fatto che è riuscito a dare un altro paio di metri al suo palo e ora credo che non abbia neanche rifrazioni né niente di niente che lo possano disturbare, e quindi perché anch'io ho notato che è molto più chiaro. Sì, a voglia, usciva bene prima, è tutto perfetto, è proprio perfetto, la radio è limpida, recoaro, come si suol dire. K. Ok, Gianni, Io ti devo lasciare, perché gliel'avevo detto anche a Fabrizio prima, poi ci siamo messi a chiacchierare anche di questi discorsi che sono serissimi, secondo me, ed è bene ogni tanto riuscire a farli, oltre a parlare di segnali, di segnalini, però devo organizzare la serata, che dobbiamo vederci la partita. Ok, dai, non c'è problema. Ti saluto, ti auguro una buona domenica, se non ci sentiamo, a te famiglia. Mi ha fatto piacere fare questo corso. Ci sentiamo, dai, sabato. Stammi bene, buona domenica. Grazie Gianni, grazie. Sei sempre gentile come al solito. Grazie, un salutone, buon proseguimento di serata allora. E buon tutto per domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Se volete ci incontriamo tutti al quadrato domani, cambio!